Benvenuti, che bello stare insieme, possiamo accomodarci e voglio dare anche un benvenuto a tutti coloro che ci seguono da casa. Siamo di nuovo in un periodo di contagi e quindi molte persone sono costrette a casa, quindi per chi è costretto a casa io sono grato a Dio per i mezzi che Dio ci dà per rimanere in connessione. Questa è veramente una benedizione nei tempi che noi viviamo, non c'è modo e non c'è scusa che ti possa limitare dal vivere appieno la Chiesa. Sei consapevole di questo? Non hai scuse, in questi tempi non hai scuse per poter vivere comunque sempre appieno la comunione fraterna, il nostro stare insieme alla presenza di Dio, l'adorazione, la preghiera e l'ascolto della sua parola. E questo è quello che vogliamo fare, vogliamo concentrarci sulla sua parola. Quanti sanno che Dio ha parole fresche, nuove sempre per noi. Amen. Ogni volta che apriamo la Bibbia, non è incredibile? È un libro che puoi aver letto migliaia di volte, ogni volta che apri la Bibbia c'è qualcosa di nuovo per te, perché la Bibbia non è un libro qualunque, è la parola vivente di Dio. Amen. Io vorrei che noi considerassimo quello che è l'anno che ci sta davanti. Abbiamo un nuovo anno, il 2022 ci sta davanti e vogliamo orientarci. Come facciamo ad orientarci? Come puoi orientarti nella tua vita? Come possiamo orientarci noi come Chiesa? Con la parola di Dio. La Bibbia dice, la parola di Dio stessa dice di se stessa che è come una lampada davanti al nostro cammino. Quindi se tu vuoi vedere, non so se ti sei mai ritrovato in un posto buio, buio pesto, e non sai dove andare, non sai come muoverti, hai paura, beh, tutto ciò che ti occorre per trovare orientamento e per percorrere un sentiero che ti porta da qualche parte è accendere una luce, avere a disposizione una luce. La Bibbia è questo per le nostre vite. È una lampada davanti al nostro piede che ci permette di vedere oltre e ci permette di continuare a camminare. Quanti sono pronti a continuare a camminare in questo nuovo anno? Amen. Noi non ci fermiamo. Chiesa, ve lo posso ricordare? Noi non ci fermiamo. Se hai scelto di fermarti, io ti dico questa mattina, non farlo. Non importa in quale situazione ti trovi, non importa in quale circostanze, non importa quanti anni hai, non importa qual è la tua condizione fisica, il Signore ti invita a continuare a camminare, perché c'è un percorso davanti a te per questo nuovo anno. Amen? Ricevi questa parola? Amen, amen, è per noi. Bene, allora, come state? Com'è questo nuovo anno? È un po' come il vecchio, vero? È un po' come l'altro ancora, no? È un po' un rinnovarsi. Tu speri che cambia la data del calendario e giri pagina, no? E poi ti ritrovi che con tutte le buone intenzioni che puoi metterci, quella pagina rimane lì. Rimane lì, per quanto tu vuoi cambiare pagina, siamo lì per tante cose, siamo ancora lì. Però la parola di Dio, Gesù, oggi ci vuole ispirare per intraprendere un percorso nuovo in un anno nuovo. Questa è mia convinzione, perché Lui ha stabilito per questo anno che il suo progetto per te e per me e per noi come Chiesa vada avanti. Lui l'ha stabilito. Amen. Quanti sono d'accordo con Elisa e possono dire un amen più forte? Amen. E amen, Elisa. Bene, allora leggiamo insieme quello che Gesù dice ai suoi discepoli e Gesù dice qualcosa di molto importante in una fase, in un punto cruciale della storia dei Vangeli. Qui i discepoli stanno per intraprendere un nuovo percorso, è veramente un nuovo anno, cioè qui ci ritroviamo che Gesù da lì a poco sta per morire, sta per lasciare i discepoli. I discepoli hanno alle spalle 3 anni meravigliosi vissuti costantemente con Gesù. Hanno vissuto miracoli, sono andati in villaggi, hanno predicato l'Evangelo, hanno visto ciechi riacquisire la vista, zoppi camminare, hanno visto addirittura morti che sono risorti e Gesù ha istruito loro, li ha equipaggiati, li ha mandati e ora si ritrovano in un punto cruciale perché Gesù sta per lasciarli, perché Gesù sta per morire E dopo la morte Gesù lo sapeva molto bene, sarebbe asceso in cielo e non sarebbe rimasto con i discepoli. E quindi, in virtù di questo enorme cambiamento, di questa enorme sfida che sta davanti ai suoi discepoli, lui dice queste parole e dice a loro: il vostro cuore non sia turbato. Il vostro cuore, immaginate lì Pietro, Giovanni, Giacomo, Tommaso, eccetera, tutti i discepoli che stanno attorno a lui, e Gesù che li guarda e dice: il vostro cuore non sia turbato. E io immagino Gesù che è qui oggi e guarda ciascuno di noi, nelle nostre condizioni, nel nostro anno di vita, nel nostro percorso, e dice anche a voi, anche a noi, questa mattina: il vostro cuore non sia turbato. Questa è la parola che il Signore vuole darti questa mattina. Falla tua. Se Dio ti dice qualcosa, ascoltatemi bene, se Dio ti dice qualcosa, Lui te la dice perché Lui stesso ti vuole mettere nelle condizioni di vivere quella cosa che ti dice. Non ti dice: il tuo cuore non sia turbato, gira le spalle, se ne va disinteressato. No, lui ti incoraggia a dire: il tuo cuore non sia turbato. Hai motivo di non avere un cuore turbato, perché sono io a dirtelo. E io sono il Dio onnipotente che può ogni cosa, e se io ti dico qualcosa, tu la puoi fare in virtù del fatto che io te la sto dicendo, non qualcun altro. E Dio questa mattina ti dice: il tuo cuore non sia turbato. Che promessa meravigliosa! Tu puoi afferrare questa promessa e andare da Dio in preghiera e dire: Signore, sono turbato, ma tu hai detto che non devo essere turbato, tu hai detto che il mio cuore non deve essere turbato. Allora tu che sei fonte di pace, che sei venuto per dare pace, che sei venuto per dare riposo, dammi quella pace, te ne prego. E il Signore viene e interviene e dà pace. Il vostro cuore non sia turbato. E poi aggiunge delle parole che sono fondamentali, vorrei che noi le considerassimo insieme. Gesù dice: credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: io sono la via. Tommaso, io sono la via, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. E qui Gesù sta dicendo: se state vedendo me, state vedendo il Padre. Se state vedendo me, state vedendo quel Dio nel quale io vi chiedo di avere fiducia. Sono tre le istruzioni chiare, specifiche, che Gesù dà in questi versi. La prima è: credi, credi, abbi fede. E in questo anno il Signore ti invita a credere, ad avere fede. Abbi fede in Gesù, abbi fede in Dio. La tua fede verrà messa alla prova per essere esercitata e per essere potenziata e perfezionata, perché Dio ci tiene alla tua fede, Dio ci tiene alla mia fede e non vuole che rimanga una fede immatura. Sii pronto alla prova della fede, sii pronto alle delusioni che potrai avere per una fede immatura, affinché tu possa sviluppare una fede che si perfeziona, che diventa più grande, che diventa più stabile, che ti permette di affrontare sfide sempre maggiori. Dio ci tiene alla mia e alla tua fede e oggi ti dice: istruzione numero uno, credi in me. Amen. Siamo qui perché crediamo in Gesù, siamo qui perché crediamo in Dio. Questa è la nostra forza. Istruzione numero due è: percorri la via. Gesù dice: io sono la via. Non hai da smarrirti. Percorri la via. Lo sappiamo molto bene che la fede nella parola di Dio ci viene mostrata proprio come un cammino. Un cammino dove noi mettiamo un passo dopo l'altro e dove noi progrediamo. La parola di Dio ci dice che anche il nostro cammino è previsto che sia un cammino in miglioramento, di gloria in gloria, di bellezza in bellezza, di vittoria in vittoria, di crescita costante e di sviluppo costante. Dio vuole che tu cammini, e se ti stai chiedendo qual è la via che tu hai per me, Signore Gesù ti dice: io stesso sono la via. E sapete cosa significa questo? Che se vuoi vivere la vita che Dio ha stabilito per te, tutto ciò di cui hai bisogno è di una relazione stretta, costante e frequente con Cristo Gesù. Perché Gesù è la via. E allora Lui ti indica dove andare. Con Lui cammini, per mezzo suo cammini. Per le sue istruzioni puoi scegliere dove andare, che scelte fare. Gesù dice: io sono la via. E quindi non hai da perderti, non hai da smarrirti. Fai ogni scelta con Gesù, cerca Gesù, parla con Gesù, coinvolgi Gesù, non vivere da solo. Gesù è la via. Se stamattina sei venuto qui e ti senti disorientato, beh, forse questa è proprio l'istruzione che ti devi portare a casa. Ricordati che Gesù è la via e non delude mai, non ti lascia disorientato. Lui è la via per la tua vita. Affidati a Lui, coinvolgi Gesù, cresci. Quando non senti che Gesù ti sta guidando, il problema non è suo. È Lui che sta provando la tua fede e ti sta invitando a una maggiore intimità. Cercalo più intensamente. Non trarre subito le conclusioni malvagie e diaboliche che ti portano a credere: non c'è, non è interessato, non parla, non ti ascolta. Queste sono bugie del diavolo, siamo consapevoli di questo. Il problema non è lassù, è qua giù. Il problema non è il cuore di Dio, è il nostro cuore. E quando non sentiamo Gesù, quando non percepiamo il suo orientamento, il problema non è Lui che non sta orientando le nostre vite, ma siamo noi che non siamo sintonizzati abbastanza. E il mio incoraggiamento per noi come Chiesa è che nel 2022 noi possiamo imparare ancora di più a vivere l'intimità con Gesù, perché Lui era, è e sarà sempre la via. La via. E noi siamo seguaci della via. Questa è una dei titoli che fu dato ai primi cristiani. Seguaci della via. Chi siamo noi? Seguaci della via. Ripetilo con me. Che cosa sei tu? Seguace della via. Gesù è una via. È la via. E poi, terza istruzione. Riconosci la destinazione. Riconosci la destinazione. Nessuno è totalmente orientato nel proprio percorso, qualsiasi esso sia, se non conosce la destinazione. Ti sei mai messo in macchina senza avere una destinazione? Beh, giri, puoi fare tanti chilometri, puoi andare qua e là, ma poi ti ritrovi a non arrivare da nessuna parte. Quando impostiamo il nostro navigatore, la cosa essenziale che il navigatore ci chiede non è un percorso, un nostro suggerimento, altre indicazioni o dettagli che si possono aggiungere nel navigatore, ma la cosa essenziale è il punto di partenza, e il navigatore lo riconosce di suo, non lo devi impostare, è la destinazione la cosa più importante. Devo andare a Barletta, e allora scrivi lì Barletta. Devo andare a Mottola, scrivi Mottola, e il navigatore ti dice il percorso per arrivare a una destinazione. Fratelli e sorelle, ascoltatemi molto bene, io credo che come Chiesa in questo anno abbiamo la necessità di far più nostra la destinazione, perché avendo più consapevolezza della destinazione che ci sta davanti, vivremo meglio il percorso e la via che Dio ha stabilito per noi. Ve lo voglio rileggere cosa dice Gesù. Gesù dice: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. La Bibbia ci istruisce, ci insegna che ci sono solo due condizioni di vita eterna, che dopo questa vita ci sarà una condizione di vita eterna presso Dio, alla presenza di Dio, e dove Dio sarà, noi saremo. E sappiamo bene che Dio è la fonte inesauribile e perfetta di ogni bene, di ogni benedizione, di ogni salute, di ogni prosperità. E quindi la vita eterna alla presenza di Dio è indescrivibile per la sua bellezza. Però c'è un'altra condizione di vita eterna che la Bibbia ci presenta, che è fondamentalmente in separazione da Dio. Non presso Dio, ma lontani da Dio. Non dove c'è Lui ci saremo noi, ma dove Lui non c'è, lì saranno coloro che saranno giudicati perché non hanno scelto di credere in Cristo Gesù, la via che conduce al Padre. Questa è la destinazione. È la nostra fede. È questo. La nostra fede non è solo per la nostra vita terrena. La nostra fede è per l'eternità e la Bibbia parla costantemente. Qui noi abbiamo solo alcuni dettagli della dimora. Gesù sta preparando una dimora eterna per ciascuno di noi, ma noi leggiamo nella Bibbia della resurrezione dei corpi, che noi avremo dei corpi glorificati. Noi leggiamo nella parola di Dio che ci saranno nuovi cieli e una nuova terra. Tutto questo svanirà e verrà fatto qualcosa di nuovo, completamente nuovo, completamente perfetto, nuovi cieli e nuova terra dove noi potremo vivere con dei corpi, non aleggeremo nell'aria, non saremo degli spiriti vaganti, no, avremo dei corpi glorificati, perfetti, che non saranno mai corruttibili, non subiranno mai la malattia, non si deterioreranno mai. Quanti vogliono questo? Quanti vogliono? Ogni volta che tu hai una malattia, ogni volta che tu hai un acciacco, quell'acciacco è un promemoria nella tua vita per dirti c'è qualcosa di più glorioso che ti attende. E per quella cosa Gesù è morto, per quella cosa Lui è venuto. Lui è morto ed è risorto per dare a noi dei corpi risuscitati, gloriosi e perfetti. E se noi non vediamo questa cosa, non percepiamo la piena gloria della fede in cui crediamo. La Bibbia costantemente, anche nella nostra lettura quotidiana, ci parla dell'eternità. Non possiamo negare l'evidenza che la Bibbia è piena di profezie, di anticipazioni del nostro futuro. La Bibbia non parla solo del nostro passato o del passato di storie passate. La Bibbia parla del futuro. Vuoi sapere qual è il tuo futuro? Non hai bisogno di un veggente, non hai bisogno di un mago, non hai bisogno di una sfera di cristallo. Imperfetti, diabolici e che ruberanno la gioia nella tua vita. Hai bisogno della luce che emana la parola di Dio attraverso le sue promesse e profezie che hanno a che fare con la tua vita attuale, odierna, ma anche la tua vita futura. La Bibbia dice e prevedeva che ci sarebbe stato un 2022 e la Bibbia prevede che ci sarà un 2032. La Bibbia prevede che ci sarà un 2102. La Bibbia prevede che c'è un 3022. La Bibbia prevede che c'è un 4022, un 5022, un 10022, un 100.022. E nel 100.022 noi avremo un vago ricordo, credo, di quello che abbiamo vissuto nel 2022 e ci apparirà così piccolo. C'è un predicatore che amo, è un autore di meravigliosi libri, si chiama Francis Chan, se lo volete cercare in internet fatelo. E lui offre questa illustrazione, ve la voglio passare perché non ho trovato di meglio. E lui sale sul palco, un po' come sono io qui con voi questa mattina, e sale con una corda. E dice, immaginate che questa corda sia la linea cronologica della vostra esistenza. Fate finta che questa corda non si fermi lì, in realtà si ferma lì, dietro il palco, la mia corda, ma esca fuori da questa sala, comincia a girare più volte attorno a tutto l'emisfero e poi vada per le galassie. Immaginate che questa corda è infinita, è così lunga. E poi dice, vedete questa parte qui bianca? Beh, questa è la vostra vita terrena. E noi siamo così concentrati sulla nostra vita terrena. Tutto è incentrato su questa vita terrena. Siamo nati e ora ci diplomeremo e ora prenderemo una laurea e ora un lavoro, ora un altro lavoro, una cosa meravigliosa. E ora mi sposo e ora accumulo tutti i soldi che posso accumulare per godermi quest'ultima parte della mia vita. E ignoriamo che c'è molto altro. C'è un 2022, sì, qui da qualche parte, non lo so dove, non so se tu sei vicino alla linea finale. Per i più giovani in mezzo a noi il 2022 corrisponde a questa parte qui, per alcuni corrisponde, spero che non sia proprio in concomitanza con la parte conclusiva, ma potrebbe essere vero per me. Potrebbe essere vero per te. Potrebbe finire la nostra vita nel 2022. O se non la vogliamo buttare sul tragico perché non ci piace di parlare di morte, Gesù potrebbe tornare nel 2022. E poi cosa c'è? C'è una vita eterna. C'è una vita lunghissima, infinita, che non si ferma e va avanti e continua e continua. È lunghissima, è eternità. È eterna. E la Bibbia dice che tutto quello che noi vivremo per questa eternità dipende da quello che faremo in quel pugno di anni che abbiamo a disposizione su questa terra. Gesù è venuto per darci vita eterna. E questa è la nostra promessa. E questa è la cosa che afferriamo nel momento in cui la afferri. E io spero che in questo anno possiamo metterci ogni sforzo. Io faccio appello a tutti coloro che predicheranno in questo anno, a coloro che insegneranno in quest'anno, a voi, a tutti noi che leggiamo la Bibbia, ad andare a studiare. Passi che diventano a volte difficili, che hanno diverse scuole di pensieri, ma che non ci devono disorientare, perché ci sono cose che sono estremamente chiare, che sono estremamente continue nella parola di Dio e che non ci lasciano smarriti, tra cui il fatto che Gesù tornerà. È che questo tempo nessuno lo può prevedere, ma è imminente. È imminente. L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 19: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita solamente, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Vedete il peso della nostra fede? E a volte noi consideriamo che la fede sia qualcosa che ci dà solo una migliore permanenza terrena. E a volte evangelizziamo in questa maniera ed è erroneo. Quando noi evangelizziamo agli altri diciamo: vuoi una vita migliore? Vuoi una vita più serena? Vuoi una vita più piacevole? Vieni, accetta Gesù. Gesù verrà nella tua vita e ti darà tutto quello di cui hai bisogno. Non stai predicando l'Evangelo. Perché quella persona prima o poi leggerà gli Atti degli Apostoli. E si renderà conto che la maggior parte, il 90% dei discepoli sono morti perseguitati, si sono ritrovati in prigione, sono stati, e oggi vale lo stesso per i cristiani. Dio non è venuto per darti un migliore soggiorno terreno. Dio è venuto per darti la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna, vita eterna per me e per te. Sapete, l'Apostolo Pietro mette in guardia attraverso le sue lettere sui falsi profeti e a un certo punto dice nella seconda lettera, al capitolo 3, versetto 3, dice: sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno, ascoltate quello che dicono questi schernitori beffardi, dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Forse non hai mai sentito un profeta, un falso profeta, un falso dottore che ti ha detto queste cose. Però forse, quando ho letto questo verso, il falso profeta potrei essere io, per me stesso, nel momento in cui accetto il pensiero di dire sono passati 2022 anni e lui ancora non è tornato. Perché parlarne? Perché pensarci? Perché credere che magari nel 2022 lui possa tornare? Perché proiettarmi verso la vita eterna o da godermi ancora la vita su questa terra? Questo è il pensiero dei profeti bugiardi che vuole sviare la Chiesa, e noi come Chiesa possiamo essere sviati dai pensieri che ci portano a dire no, tutto ciò che conta è quello che viviamo su questa terra. Tutto ciò che conta è quello che abbiamo sempre visto, e finora Gesù non si è visto, Gesù non è apparso, Gesù non è tornato. Tutto ciò che conta è che le cose continuano ad essere come dal principio della creazione. Vedete, questo è un modo di pensare molto, molto chiuso, molto limitato, che si concentra su quella piccola fetta di vita che è delineata dal nastro bianco che vi ho fatto vedere. Non fare questo. Non pensare a questo, non ragionare in questa maniera, non ragionare con il pensiero mondano e comune della società che ti circonda, che dice ciò che conta è tutto ciò che avviene oggi e ora. Perché gli uomini sono disperati nel 2022? Perché ciò che conta è quello che vedono, perché ciò che conta è quello che si prospetta. Invece i credenti possono addirittura pensare al fatto che le cose possano peggiorare. Non abbiamo bisogno di un incoraggiatore che ci dice andrà tutto bene. Ve lo ricordate il claim? L'abbiamo appeso sui nostri balconi. È una bella frase, ma noi non abbiamo bisogno di questo tipo di parole. Andrà tutto bene, per poi vedere che le cose vanno comunque a rotoli. Noi abbiamo bisogno del nostro sommo pastore che ci dice il vostro cuore non sia turbato. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Il vostro cuore non sia turbato. E Gesù te lo dice oggi. Gesù te lo ricorda oggi. Il tuo cuore non sia turbato. Il tuo cuore non sia turbato. Le cose possono andare anche peggio, ma per quanto peggio possano andare, il meglio è davanti a te, letteralmente. La peggiore sciagura che tu puoi vivere su questa terra è l'esperienza più vicina all'inferno che mai avrai nella tua vita. Perché davanti a te c'è un'esistenza eterna di riscatto, di ogni sofferenza, di ogni malattia, di ogni ingiustizia, di ogni dolore, di ogni turbolenza che vivi qui su questa terra. Sarai riscattato, premiato, benedetto abbondantemente. Sapete perché quando saremo in cielo noi adoreremo il Signore? Non perché non sapremo che altro fare guardandoci, no, ma perché tutto quello che vedremo, tutto quello che percepiremo ci porterà inevitabilmente a dire Signore grazie, Signore wow, Signore la dimora, Signore la dimora, questa è la dimora. Quanti anni ho sprecato a costruire la mia dimora terrena, e ora è in rovina, è bruciata, è distrutta, ho speso anni di lavoro. Questa è la dimora. Gesù dice fatevi tesori nei cieli, perché dureranno in eternità. Io voglio concludere portandovi ad un altro verso che ci fa percepire, ci fa comprendere che l'Apostolo Paolo aveva ben compreso che Gesù è la via, che ciò che conta è il secondo punto delle istruzioni. Dopo aver creduto, ciò che conta è percorrere la via e poi avere piena consapevolezza e riconoscere la destinazione. E lui lo dice così in Filippesi al capitolo 1, versetto 22, dice per me vivere, e si sta riferendo alla vita terrena, si sta riferendo agli anni che gli rimangono da vivere su questa terra. A questo punto lui dice, per me vivere è Cristo. Per me vivere è Cristo. E il morire, guadagno. Guadagno. Per me il vivere è seguire la via, stare con la via, ubbidire alla via, dipendere dalla via. Per me la vita è Cristo e il morire guadagno. Ti ha mai detto qualcuno che la tua morte, che la tua partenza terrena è un guadagno? La morte è un tabù. La morte, noi non parliamo di morte, non si nomina, si cerca di non pensarci. La morte è una di quelle tematiche che sembra che sia meglio non toccare, perché suscita tanti sentimenti contrastanti. Ne parliamo in chiesa quando ci sono i funerali. E vi invito a venire quando ci sono funerali, perché è una gloriosa, è una meravigliosa opportunità per afferrare, avendo davanti ai propri occhi una persona deceduta, il senso di tutto quello che sto dicendo questa mattina. Però in questo anno la mia speranza è che noi possiamo far nostra la comprensione della morte come una piccola tappa, un piccolo passaggio cruciale per farci guadagnare tutto ciò per cui Gesù è venuto, è morto ed è risorto. Per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno, ma io vorrei che nel nostro valorizzare, perché questo è quello che noi dobbiamo fare, valorizzare l'eternità. E quando i credenti valorizzano l'eternità, a volte passa un po' il messaggio che non si dà più valore alla vita terrena. Si svalorizza la vita terrena, no? È quasi un pensiero quasi suicida, però riscattato, no? E il credente che dice non ce la faccio più di questa terra, per me il morire è guadagno. Ma non è questo il senso. Il senso che l'apostolo Paolo ci sta dando qua è proprio un senso che ha valore la vita eterna, ma ha valore la vita di oggi, ha valore il 2022. Non ci fermiamo, non incrociamo le braccia ad aspettare il ritorno di Gesù, perché quello che conta, quello ha valore, quella è la cosa più importante, è sicuramente glorioso ed è meraviglioso ed è importantissima la vita eterna. Ma la comprensione del valore della vita eterna offre a noi l'opportunità di impreziosire e valorizzare la nostra vita terrena. Infatti, vedete che cosa aggiunge l'apostolo Paolo? Lui dice, ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo perché è molto meglio. Sono bellissime, no, queste parole? Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo perché è molto meglio. Che percezione diversa della morte. È molto meglio. Fratelli, sorelle, è molto meglio. E so che tutti vorremmo evitare, ci viene presentata, no, la morte, più lontana sta, meglio è. No, ma è molto meglio. E poi aggiunge, ma dall'altra, il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Eternità e vita terrena. Eternità è preziosa. E Cristo ha pagato col suo sacrificio per il perdono dei tuoi peccati affinché tu possa accedere alla vita eterna. E nel momento in cui tu ricevi Cristo, il suo perdono, e ricevi la promessa e la speranza della vita eterna, comincia una storia di vita importante. Cominciano dei giorni che Dio ha stabilito per la tua esistenza terrena, che sono dei giorni preziosissimi, perché attraverso quei giorni il Signore si vuole servire di te per raggiungere altri, per invitare altri a quella vita eterna, per permettere alla tua vita di essere impreziosita non da cose terrene, passeggere, temporanee, ma dal vivere cose che hanno un valore eterno. Tu oggi hai la possibilità di dire, io nel 2022 voglio vivere per Cristo. Forse oggi tu hai la possibilità e forse la scelta che devi fare è di accettare Gesù nella tua vita e dire: io voglio la via, io voglio ricevere il perdono dei miei peccati e voglio la speranza della vita eterna. Sai che non devi fare alcun sforzo, sai che non devi guadagnarti questa vita eterna, sai che tutto ciò che era necessario fare è stato già fatto. Gesù ha pagato su quella croce e tu puoi ricevere oggi il perdono dei tuoi peccati e l'accesso gratuito alla vita eterna, la promessa della vita eterna, così che quando morirai la tua morte sarà guadagno, perché vivrai per l'eternità con il Signore. Però forse, sapete, un termine più idoneo rispetto a quello di accettare Gesù nella nostra vita è quello di lasciare la nostra vita nelle mani di Gesù. E a volte quando pensiamo, no, accettare Gesù significa lo invito nella mia vita, io vado avanti nella mia strada e Gesù ora è con me e facciamo insieme le cose che voglio comunque fare io. Ma il senso reale di aver conosciuto Gesù e di aver accettato Lui è quello di arrendere la tua vita a Lui. E forse questa è la decisione che tocca a te questa mattina. Puoi scegliere di accettare Gesù nel 2022. Puoi scegliere di dire: Gesù, io ti voglio nel mio 2022. Però c'è una scelta ancora più profonda, è più bella, è più importante che io ti invito a fare questa mattina. E dire: io arrendo il mio 2022 a te, Gesù. Non ti invito nel mio 2022, nei miei piani, nei miei progetti, nelle mie scelte, nella mia caparbietà, nel mio intraprendere la strada con la Chiesa, con le autorità, con tutto quello che ci sarà davanti e ti invito a venire. No. No, la scelta che Gesù ci invita a fare è quella di arresa. E io voglio invitarti questa mattina ad arrendere il 2022. Io l'ho fatto in preghiera in questi giorni e vorrei che ogni giorno possa rinnovare questa mia preghiera. Questo 2022 non è mio. Per me vivere è Cristo. Dove tu mi vuoi, come tu mi vuoi, come tu ci vuoi. Arrendi a Cristo Gesù la tua vita. Arrendi a Cristo Gesù questo nuovo anno. Concludo leggendo le parole di Gesù stesso, che dice in Luca 9:24 e in tutti gli altri Vangeli: chi vorrà salvare la sua vita? Com'è che salviamo la nostra vita? Cercando di fare in modo che possa essere quanto più piacevole possibile, che possiamo raggiungere tutti i traguardi che abbiamo in mente, che possiamo fare gli sforzi per guadagnarci qualcosa ed essere contenti della vita vissuta. Gesù dice: chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo fare una scelta questa mattina. Vuoi perdere la tua vita? È una frase molto forte. Però è veramente quello che Gesù ci chiede di fare, quindi non voglio sminuire o annacquare l'Evangelo, quella che è la buona notizia che Gesù ci offre. Tu puoi perdere la tua vita e nel perderla la guadagnerai, e nel momento in cui la lasci e la rendi completamente, allora il turbamento del cuore svanisce, sei in pace, vivi con una ragione, vivi per uno scopo. Vivi in maniera appagata. Io vedo tante persone che mi stanno guardando in questo momento che hanno una vita appagata in Cristo. La stessa vita vale per tutti gli altri e per chi mi segue da casa, per chi ci sta seguendo da casa o chi ascolterà questo messaggio più in là. Dio vuole darti vita piena, non ti vuole derubare, ma ti invita ad arrendere, ad essere umile, a dire: la mia vita nelle tue mani. Qualsiasi cosa tu vuoi che io faccia, io farò. Qualsiasi cosa tu vuoi che io decida, dovunque tu vuoi che io vada, io lo farò. Questo è arrendere a Gesù. Vogliamo chiudere i nostri occhi e voglio pregare per tutti coloro che vogliono fare questo, questa mattina, e dicono: io voglio arrendere la mia vita a Gesù. forse per la prima volta, o forse per questo nuovo anno vuoi fare questa scelta di dire: io voglio arrendere il 2022 a Gesù, allora ti chiedo di alzare le tue mani, che è proprio un segno di arresa. Vogliamo arrenderci alla sua presenza. Alza le tue mani, allinea il tuo cuore a queste mie parole. Pensa a tutti i giorni che ti stanno davanti, a tutte le scelte. Pensa al tuo matrimonio, pensa alla tua famiglia, pensa alle tue amicizie, pensa ai tuoi obiettivi, pensa ad ogni cosa che hai in mente per questo anno, ogni speranza, ogni desiderio, ogni obiettivo, ogni scelta di cose che sai già che dovrai affrontare, ogni scelta di cose che ancora non sai, che verranno, si presenteranno. Pensa a tutte queste cose, vogliamo arrendere tutto a Gesù questa mattina. Gesù, che altra scelta avremmo davanti a queste parole, alla tua parola, alle tue promesse, se non quella di arrendere tutto e non risparmiare niente? Perché questa vita è passeggera, è temporanea, è fragile. E tu hai per noi una vita più eccellente. E non solo per noi, ma per molti altri. La nostra preghiera per noi, per i nostri figli, per le generazioni future, per i nostri colleghi di lavoro, per i nostri vicini di casa, per questa città, per questo paese, per le nazioni, e che tu possa salvare anime attraverso di noi. Facci vivere una vita che è arresa completamente, che possa parlare realmente di te. E non siamo sufficienti a queste parole, a questa scelta. Non la riusciamo a fare da soli, dobbiamo farla con te, Gesù. Sei tu che ci puoi mostrare la via in questo anno, la via anche della rinuncia, la via della resa completa. Tu ci puoi ricordare quando stiamo andando nella nostra strada in autonomia, tu ci puoi ricordare che cosa tu prevedi per noi. Noi vogliamo seguire l'alternativa di vita che tu hai per noi. Noi vogliamo seguire la tua via, noi vogliamo te quale via nelle nostre vite. Quindi io ti prego, per tutti noi, con le mani alzate in questo luogo, e per ogni persona che da casa sta alzando le sue mani o ammottola, io prego che tu possa prendere questo nuovo anno che ci sta davanti, e io prego affinché tu lo possa guidare alla luce dell'eternità. Nel nome di Cristo Gesù lo prego. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo continuare a stare alla presenza di Dio. Fai una tua preghiera. Esprimi con le tue parole a Dio quello che hai nel cuore, alla luce di quello che il Signore ti ha mostrato questa mattina, e vogliamo adorarlo, stare ancora con Lui, alla sua presenza.